Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi partiamo dall'appuntamento previsto per giovedì, Consiglio UE, una giornata secca, contrariamente alle abitudini. Ci racconta tutto Beda Romano. È un vertice europeo di un solo giorno, anziché due, quello che si terrà giovedì qui a Bruxelles. I temi sul tavolo sono l'immigrazione, la sicurezza e la situazione internazionale, in particolare in Siria. Su quest'ultimo fronte, Francia e Gran Bretagna insistono per sanzionare la Russia, accusata di crimini contro l'umanità ad Aleppo. Più in generale, il vertice servirà a trovare un accordo con l'Olanda sull'intesa di associazione con l'Ucraina. Qualche mese fa gli olandesi hanno bocciato per referendum l'accordo, bloccando l'iter di ratifica. Pur di trovare una soluzione, i 28 dovrebbero accettare una dichiarazione vincolante che sarà associata al trattato e che stabilisce come l'adesione dell'Ucraina all'Unione non sia una possibilità a breve. Questa dichiarazione dovrebbe permettere al primo ministro olandese Mark Rutte di tornare in Parlamento e ottenere il via libera dei deputati. La vicenda è rivelatrice delle difficoltà dei governi ad affrontare l'euroscetticismo delle proprie opinioni pubbliche, senza mettere a repentaglio le scelte politiche prese a 28. In questo senso, proprio il tema dell'euroscetticismo alleggerà inevitabilmente nelle discussioni tra i leader. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Katainen, tra l'altro, ha parlato della crisi bancaria in Italia, ha detto che non è preoccupato, le autorità italiane ha detto hanno dei buoni piani per gestire la situazione del sistema bancario e abbiamo fiducia in loro. Cambiamo argomento, anno nuovo, etichetta nuova. Dal 2007 la Commissione europea puntava ad inserire in etichetta le informazioni nutrizionali che avrebbero potuto essere utili alla tutela della salute dei consumatori. Il servizio. Fin dal 2007 la Commissione europea puntava ad inserire in etichetta le informazioni nutrizionali che avrebbero potuto essere utili alla salute dei consumatori. Con il 13 dicembre 2016 il percorso è compiuto. Negli anni ci siamo abituati a leggere lunghe etichette su molti prodotti, ma qualche differenza ci sarà. Sabina Rubini, biologa ed esperta di sicurezza alimentare. Il legislatore ha voluto dare chiarezza al consumatore, evitando che i produttori potessero decidere di mettere in evidenza a proprio vantaggio alcune sostanze rispetto ad altre. Detto semplicemente, il legislatore non voleva che magari su un'etichetta ci fosse scritto basso quantitativo di zuccheri e poi non fosse evidenziato che invece magari c'era un alto quantitativo di grassi. Poiché si tratta di informazioni per la salute, d'ora in poi dovranno essere ben specificate le quantità di proteine, grassi, con riferimento agli acidi grassi saturi, carboidrati, con la specifica degli zuccheri, e sale, sostantivo più noto di sodio, che resterà solo per indicare il sale naturalmente presente nell'alimento. Una regola che vale per molti, ma non per tutti. Per esempio l'acqua, oppure quei prodotti che hanno un solo ingrediente e non sono trasformati, oppure alcune tipologie di prodotti anche artigianali. Sono delle attività veramente molto piccole e che quindi danno vita a un quantitativo di prodotto molto esiguo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E infine, fumata nera per le nuove norme sul biologico al Consiglio Agricoltura in corso a Bruxelles. Completare la riforma era tra le priorità della presidenza slovacca, ma nonostante gli sforzi non è stato possibile trovare un accordo di compromesso. È tutto per questa edizione, naturalmente tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri GR24. Un saluto e a domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.